grande è una bomba, Steve McQueen. Ci sono 20 orge nella mia mente, 13 nelle mani, massacri. Ci sono qui fate morgane, neanche a contarle. Cadono perle di sangue dal signore delle tenebre, manco a enumerarle. Ci sono 20 parole in segreto che ti dico al contrario, 20 parole nella mia testa che non potrei dire neanche con in mano un rosario. Ci sono volte che annego a fuoco, rimango incline a sezioni di overdoso. Ci sono parole che mi fanno vizioso, quindi te le dirò ancora anagrammandole o dicendole al contrario, anche se alla best corna può manna che malaf. Chissà che cosa ho detto in questo verso, detto tra un po' al contrario all'anagrammato. Ci sono 20 grammi di carro armato sopra le mie spalle, sei tu che spingi più di quanto io possa, e quindi fresta la fossa come scelta la notte sola, una tempesta di lacrime di Madonna. Ci sono 20 parole che non ti posso dire, ma che ti posso anagrammare. Di certo non i nostri nomi, io sono un'astronave, non un cimitero ambulante. Ci sono 20 cose che non ti posso dire e altre che ti posso anagrammare. Vorrei portarti distante verso il mare, verso un lido sicuro che tu possa volare. Sì, tu che sei il mio soldato, corri come gli altri e porta le tue armi in altri porti. Ci sono 20 parole che non ti posso dire, ma che ti posso anagrammare, dire al contrario. Puoi dire quello che vuoi che sono uno sfigato, ma rimane la sostanza e il fondato della mia arte. Non sono un parla che dice di essere artista e poi soltanto una merda che si vanta a parole di delinquenti. Siamo tutti bravi a portare via le donne alla gente. Ci sono 20 parole che non ti posso dire, ma che ti posso anagrammare.